sei stato un protagonista. Scusi, non... Ah, meglio, sì. Ah, c'è il microfono adesso. Si può mettere a terra, sì. Sì, con una voce molto forte. Pronto? Sì, si sente. Dicevo che in questi ultimi 50 anni, intorno alla produzione, soprattutto poetica, dell'Alto Adige, si è costituita una letteratura. Io vorrei fare una breve storia, un breve excursus di come si è sviluppata la rivista Adige Panorama, successivamente mutata in Regioni Panorama, regione attiva di poesia da parte delle varie province italiane. Ciò è stato egregiamente messo in luce da Carlo Romeo nel suo recente libro Gli anni della poesia dal 70 al 90, che non è prezioso solo come raccolta di indici, quindi per la sua precisione, ma soprattutto per la sua sostanziosa profazione, in cui mette in luce le varie iniziative che il direttivo di queste due riviste, in particolare Cesare Guglielmo, ebbero per rendere queste riviste sempre più varie, più interessanti, e nel diffonderle poi in tutta Italia. Il fatto di riunirsi ebbe il merito di stimolare i poeti a scrivere, a pubblicare, o di saggistica o soprattutto di poesia, non solo sulle due riviste, ma anche in volume presso varie case editrici. E questo fu importante, questo riunirsi per scambiarsi le idee, per confrontarsi e quindi per essere nello stesso tempo anche incoraggiati a pubblicare, sapendo che qualcuno leggeva, anche se si sa che l'utenza nella poesia è piuttosto scarsa. La prima antologia, che raccoglieva 5 poeti del gruppo storico di Spazio, De Romedi, Mondini, Cardone e De Marchi, era intitolata Poeti in Alto Adige e si presentava con un notevole apparato critico anche eccessivo, con uno studio da parte di Carmeni, che allora insegnava alla letteratura italiana all'Università di Feltre, di Virgilio Mattei, che diede un'interpretazione in chiave strutturalistica che allora andava di moda, ed è sottoscritto. E l'antologia ebbe una profezione di un illustre critico, antologista, Ugo Fasolo, il quale nella prefazione istituisce un interessante parallelo fra la poesia e il paesaggio. Ed egli scrive: questo limpido atteggiamento interiore viene loro dalla natura che li attorna, con le sue forme definite, riconoscibili, natura che non tollera equivoci e suggerisce immagini di splendore e di corruccio severo. Fasolo aveva quindi individuato lo stile che accomunava i vari poeti, che si può definire uno stile classico romantico, o meglio classico moderno, in quanto si avvaleva di un linguaggio moderno, con l'esproprio di termini anche dei mass media assieme ad altri di estrazione letteraria, ma classico sostanzialmente perché ispirato agli ideali dell'armonia e della bellezza e soprattutto per la chiarezza espressiva, vero? Per il nitore delle immagini, per questa comunicatività espressiva propria della poesia classica. Tutto ciò era dovuto ad una omogeneità temperamentale più che ad esiti di ricerca. La produzione del gruppo nel frattempo era aumentata, i soci avevano pubblicato varie sillogi, così che questo attirò l'attenzione del professor Giuseppe Negri, direttore, come tutti sappiamo, del Centro Cultura Alto Adige, che interessò il critico Bruno Maier dell'Università di Trieste, il quale venne a Bolzano, fece 2 conferenze sulla poesia locale, e le 2 conferenze vennero pubblicate sulla rivista Il Cristallo dell'82 e dell'83. Egli sosteneva l'utilità di una prospettiva regionale, ma nel contempo negava recisamente che si potesse parlare di una altoatesinità o bolzanità di questa produzione poetica. E diceva: perché una simile caratteristica si può costituire in un lungo periodo di tempo e in presenza di una già formata e attiva tradizione letteraria e culturale che semmai si può trovare nel Coté tedesco. Andava di moda allora la ricerca delle linee regionali. Per merito di Luciano Anceschi si era parlato. Giovanzotti anche, no? Sì, sì. Poi Anceschi aveva parlato di una linea ligure che faceva capo a Sbarbaro e a Montale. Poi si era parlato di una linea lombarda con Vittorio Serendi, ma che si faceva risalire addirittura al Parini. E queste linee regionali vennero subito contestate, furono contrastate, tanto che oggi non se ne parla quasi più. Niente di male, quindi, anche se non si ravvisa in questa produzione una linea chiaramente altoatesina. I grandi poeti come Montale, ad esempio, non possono essere ridotti ad una linea regionale, vero? Sono poeti universali, i loro messaggi sono universali. E nella poesia di Montale che cosa c'è di ligure? Il paesaggio, ma nient'altro. E venendo a noi, eterogenei e di diversa provenienza geografica erano invece i poeti che erano venuti in Alto Adige all'età di 20-30 anni, che avevano nel cuore la nostalgia del paese d'origine, che rappresentava la loro giovinezza, del paese natale, che cantavano sempre con accenti struggenti di nostalgia, con una volontà di ritorno. Di qui il difficile inserimento di questi poeti nella realtà locale, così diversa per tradizioni, per costumi, per lingua. E il loro rapporto è stato un rapporto di accettazione e di rifiuto, perché con la mente erano tutti propensi ad un tipo di convivenza europea, ma il cuore era invece legato al paese di origine e alla propria identità italiana. Certo che se fossero tornati nel paese di origine sarebbero rimasti delusi, perché la giovinezza, vero, naturalmente non c'era più e perché nel frattempo tutto era mutato. Quindi un duplice atteggiamento che manifestava nei poeti locali il disagio, l'amarezza, talvolta la polemica, come in Pietro di Spazio, nei confronti di una realtà che non era la loro, vero? Che non erano riusciti e non avevano nessuna intenzione neppure di assimilare. Questo atteggiamento non si ravvisava invece nei poeti dell'area più vicina, cioè del Trentino, i quali si adoperavano a parlare l'altra lingua, a tradurre la poesia tedesca. E qui voglio ricordare un sacerdote, Don Angelo Busetti, germanista, si era laureato con una tesi su Hermann Hesse e fece una bella antologia, poesia religiosa tedesca, quindi traendo dalla letteratura tedesca i migliori componimenti di ispirazione religiosa dal 600 ad oggi e traducendole. L'antologia passò sotto silenzio. Poi la terza tappa di questa letteratura altoatesina è data da una grossa antologia che sarebbe questa, La poesia nel Trentino Alto Adige, che fu edita dal Forum di Forlì. Il professor Giampaolo Picari ebbe l'iniziativa di creare delle antologie con un vasto apparato biobibliografico e critico per tutte le regioni d'Italia, per due motivi. Un po' per vedere le caratteristiche, soprattutto paesaggistiche, vero, e di costume, che si trasferivano nella poesia regionale, ma poi anche per far conoscere alla critica ufficiale i poeti di provincia, che di solito vengono ignorati, vero? Perché si sa che esistono i grandi centri di potere letterario, soprattutto a Roma, a Milano, e che il poeta, anche se valido di provincia, è ben difficile che si faccia conoscere. E allora si rivolse al sottoscritto chiedendo di collaborare per la parte altoatesina e a Lucio Canestrini e a Vittoriano Esposito per la parte trentina, e venne fuori questo volume, La poesia del Trentino Alto Adige, con cui anche la poesia altoatesina oltre che trentina si inseriva nel più vasto circuito nazionale. Furono presentati 16 poeti d'Alto Adige in base alla loro consistenza, direi, di produzione poetica. E il gruppo storico si era ampliato ed eravamo nel 1968. Dal punto di vista dello specifico della poesia, e cioè dell'espressione poetica, occorre constatare che accanto al modulo classico moderno sopracitato, vi era in tutti questi poeti lo sforzo di adeguamento ai nuovi moduli espressivi che si erano andati affermando nella lirica nazionale, quindi allontanandosi sempre di più dai moduli ungarettiani, ermetici, dell'essenzialità espressiva, per aprirsi ad una poesia più discorsiva, di più ampia struttura sintattica, ovvero una poesia parlata. Quindi è stata interessante questa forma di adeguamento al mutare delle forme poetiche. Tutto questo però nell'ambito di un moderatismo poetico, alieno da rischi e da avventure. In quell'epoca, nel 63, era sorto il gruppo sperimentale di Sanguinetti e compagni, ovvero della poesia che, insomma, secondo alcuni si risolveva in giochi linguistico-intellettuali freddi e senz'anima, in cui si poteva indubbiamente ammirare l'abilità del linguista, ma non era certamente una poesia comunicativa, è una poesia di sentimento. E i poeti locali quindi si astennero da questi rischi, non approvarono la poesia sperimentale, continuarono su quella loro tradizione del modulo stilistico che abbiamo detto classico moderno. Non fecero neppure una poesia di carattere politico, che pure allora andava di moda, no? Io ricordo che allora imperava l'ideologia marxista e insegnavo e circolava il libretto rosso di Mao Zedong. Ebbene, questi poeti, pur essendo anche nella loro vita privata politicamente impegnati, si astennero di dare espressione a sentimenti politici e quindi a comporre una poesia civile, no? Forse per i rischi che la poesia civile, dal punto stilistico vero, presenta, come l'oratorio, la declamazione, l'eccessiva datazione a momenti particolari che poi vengono superati. A questo punto entra in attività la LATMA con i suoi promotori Franco Latino e Franco Maria Maggi, che diedero vita a due giornali, LATMA e Gazzetta Letteraria di Bolzano, e a numerose antologie. Alcune di queste antologie avevano un carattere nazionale, quindi rappresentavano le poesie di poeti delle varie regioni italiane. Altre invece un carattere locale, e tra queste merita un particolare rilievo questo libro, Italienische Dichtung in Südtirol, vero, dove compaiono i poeti locali con le loro composizioni, tradotti da quel celebre traduttore che si chiama Josef Maurer, di cui oggi nessuno ne parla, nel Cristallo è stato ricordato, ovvero ultimamente. Ed ecco che con questo libro la poesia altoatesina è entrata nel mondo germanofono, con lusinghieri riconoscimenti, soprattutto negli ambienti culturali di Innsbruck, che furono specialmente all'inizio molto più attenti alla produzione letteraria e poetica in lingua italiana delle istituzioni locali. Ecco, l'interesse verso questa produzione, che ha 50 anni di vita, diede luogo ad un noto libro, Un limbo di frontiera di Carlo Romeo, in contemporanea con La storia della letteratura italiana in alto Adige di Maggi e Latino, editi con il contributo della provincia. Quello di Romeo parla però di tutta la produzione letteraria del Novecento. Ecco, ora venendo al dizionario di cui parlerà più diffusamente l'amico Eugen, io osservo una novità rispetto ai numerosi dizionari che vanno di moda, che vengono via via pubblicate dalle varie case editrici in varie città. Una è data dal fatto di presentare degli stralci di poesia dei singoli poeti, in modo da dare al lettore la possibilità di farsi un'idea, sia pure minima, dello stile poetico. L'altra, la citazione di giudizi critici, non solo il giudizio critico del compilatore della scheda, ma giudizi critici vari. Si sa che ci sono critici di fama nazionale come Piero Malli, Squarotti, Frattini, eccetera, che si sono interessati a questa poesia, a cui io auguro una lunga vita. Adesso lascio la parola all'amico Galasso. Ringrazio professor Silvano De Marchi, anche perché ha già detto molte cose anche sull'antologia, o meglio sul dizionario di cui parliamo. Il dizionario riprende però in forma totalmente nuova, per citare un'opera che, di cui Silvano ha già parlato, La storia della letteratura italiana in Alto Adige, che però risale a un lustro fa, quindi naturalmente c'è un aggiornamento, c'è un'estensione a livello di voci e anche a livello di contributi critici. Io vorrei sottolineare in particolare, l'ha già detto Silvano, il fatto che abbiamo davanti a noi un'opera appunto che ha delle presentazioni critiche, oltre a quella dell'assessore, del dottor Lampis, il contributo di Paolo Campostrini, che è il redattore capo dell'Alto Adige, e delle note dello stesso professor De Marchi e di Latino e Maggi, che sono i curatori e anche quelli che hanno diciamo impresso una svolta appunto a questa nuova, se vogliamo dire così, e in effetti nuova lo è rispetto all'andamento precedente. Anche l'amico Carlo Romeo, quando si troverà, se quasi certamente si troverà a scrivere dopo gli anni delle riviste, qualcosa c'era già nel Limbo di Frontiera, ma più sistematicamente una storia della poesia, della letteratura di questi anni, naturalmente non potrà non fare i conti diciamo con gli osti, nel senso appunto Franco Latino e Franco Maggi, che oltre che poeti sono organizzatori culturali, editori, e curano appunto due riviste che hanno un valore particolare. Dicevo, anche lo studioso, anche l'archivista nel senso migliore, nel senso foucaultiano e deleuziano del termine, dovranno fare i conti con questi testi. Sarà un testo che naturalmente, come tutte le cose umane, è perfettibile, però diciamo dà un contributo fondamentale per conoscere gli autori, per le note bibliografiche, per il contributo antologico, pur se breve, perché è una questione ovvia di spazi, e per le note critiche, nonché poi per gli indici che completano l'opera. Per dire ancora qualcosa, e poi però lasciamo perché devono parlare i testi, volevo sottolineare che verranno lette una poesia per autore, perché o anche tranche di poesie se ci saranno problemi di lunghezza. Volevo sottolineare questo. Ecco, ha detto bene l'amico Silvano, c'è una Medietas che non è una Mediocritas, e direi anche che abbiamo qui autori delle provenienze più varie, alcuni letterati, poi abbiamo una psicanalista sociologa, abbiamo una storica dell'arte, abbiamo dei commercialisti, dei medici, degli artisti, e quindi c'è anche diciamo un contaminatio che è molto fecondo, o c'è l'ultimo della lista, non last but not least, Zuccarmaglio Bruno, che è diciamo un teatrante, o comunque viene dalla frequentazione dello spettacolo, e in genere ecco, non direi che la contaminazione, naturalmente con le proprie esperienze e di lavoro e di formazione e di interesse primario, è fondamentale, ma non inficia mai la qualità poetica. Questo è da sottolineare, E quindi anche l'annosa questione Snow, eccetera, e Huxley, The True Culture, no? Le due culture, viene sostanzialmente, direi, superata. È una poesia in gran parte, se dovessimo descriverla dal punto di vista linguistico più ovvio, insomma, no? La funzione poetica, quindi espressiva, è primaria, talora diciamo anche la funzione fattica, se guardiamo sempre dal punto di vista della linguistica, ha una grande importanza. Cioè la funzione fattica è il coinvolgimento. Se c'è un emittente, c'è un ricevente. Ecco, diciamo, il creare un codice linguistico, poetico comune tra trasmittente e emittente, e coinvolgere, non diciamo emotivamente, ma empaticamente il lettore. Questo è lo scopo della poesia. Direi che domina questo dal punto di vista del tipo del testo. Ecco, c'è una poesia descrittiva, c'è una poesia espositiva, come ha detto bene Silvano, non c'è una poesia celebrativa o una poesia regolativa o gnomica, quale può essere quella diciamo politica, tra virgolette. Io poi non ho mai ben capito cosa sia, francamente, perché la migliore poesia definita come politica spesso non lo è. Precht stesso, nelle cose migliori, non è prettamente politico, ma passatemi questo giudizio. Ecco, direi, ecco, quindi questa medietas di cui Silvano parlava si trova pur in una varietà estrema di stilemi. Allora, diamo inizio a questa carrellata di autori con Aliprandini Marco, La montagna incantata. Porgi i tuoi sensi al mitico xilofono, le cui note rievocano sciamaniche visioni. Stravolti i limiti, sottili percezioni, tante volte ricercate nelle vitre e crepe del passato o nel violento fuoco del presente. Mi involo nella contemplazione di questa montagna incantata, nera, coperta solo in parte dall'eterno rinnovarsi del panno di Penelope. Avanzini Celestina, da Poemi dell'anima. Se te ne vai, alba di sposa d'antico silenzio e di luna, alba di sposa d'antico silenzio, vorrei dormirti qui, dove quel bacio di padre colorò verdi i miei occhi. Per lande secche vibranti di odori, catturare di una Saturnia il volo, così che l'effimero s'accosti all'eterno. Intatto il silenzio fende di luna, ove sentono giochi d'angeli infanti, come giovani delfini inebriati d'amore. Bada Fiammetta. Non so abituarmi facilmente alla visione del sogno, perché ogni sogno è un sogno a sé. Anzi, più mi abbandono al sogno, meno mi abituo ad esso, mentre più vago nella realtà, più essa mi sembra più sogno del sogno. Berti Paolella Elisabetta, Sussurro d'amore. Mentre il cielo appena si rischiara e lontano corrono le stelle della notte. Un sussurro d'amore mi sveglia al primo giorno. Accanto a me rimane il tuo profumo e di nuovo sogno il tuo lungo ritorno. Bizzo ardicia Pamela. Come debole canna al vento, all'alitar della tua voce cominciai a tremare, sicura di non reggere alla bufera che era in te. Umberto Bombasaro. La leggenda della ballerina di pietra. Le lune nere, in cerchio adunate, rinchiudono il cielo nello specchio bleu. Nella gabbia della notte, per il patto del riscatto, prigioniera la nuvola danza il ballo dei lenzi. Rapidi passi, brevi evoluzioni, minuetti, scuri applausi. Fuggono le lune nere al raggio freccia del sole. Ferita al cuore, precipita la nuvola ballerina. Ora è là, racchiusa nel profilo del monte, in pietra rosa scolpita, nell'ultimo passo di danza. Grazie. E continuiamo con Maria Luisa Borzaga. C'è? Non possiamo neanche salutarla. Grazie. Fiaba d'autunno. Lunga, deserta, soltanto mia, la strada che porta laddove le nubi si addormentano quando viene il sole. La luna ammira da lontano la danza delle foglie, mentre con ali invisibili inseguono il vento, leggere, pinte. Di nuova poesia riempio il mio cuore, sensibile alla bellezza di questa fiaba d'autunno che mai avrà fine. Casera Camillo. Un pensiero. Un cinguettio di uccelli diversi, un'orchestra naturale, un concerto armonizzato con note orecchiabili. Con arte delicata annunciano: è presto primavera, primavera per tutti. Bel regalo naturale. Un esperto vecchietto dice: l'esperienza mi suggerisce, domani piove ed è primavera. La terra accoglie l'acqua cristallina, restituisce alla natura un colore bellissimo, ricco di speranza. Alberi fioriti, diversi colori dal bianco al rosso, al giallo delicato delle forsizie. Diversi uomini con i loro problemi, con ondulati pensieri, come una primavera diversa nei suoi messaggi di bellezza, di fede e di luminosità naturale. Fioritura indica un raccolto abbondante. I pensieri dell'uomo indicano vitalità della vita. Che c'è di più bello se non vivere la primavera e con la primavera amare se stesso e l'uomo? Alessandra Cestari. Signore, non sei la tempesta che scardi nel tempio della montagna degli avi. Non sei il mare che ruggisce da profondo il suo sdegno la sabbia. Non sei il vento che colpisce e trascina le bianche ali di velluto. Tu passi lento e silenzioso sulla ragnatela che muore e indichi tormento, perdono e pietà. Costa Maria Giuliana. La nonna a Michele anni 3 e mezzo, e a Tommaso, anni 2. Sono sbocciati all'improvviso i colchici, sopra i prati già arsi dell'autunno, dimentichi ormai del tenero verde variopinto e della luce intensa dei mattini. Sbocciate così, a sorpresa, come colchici vividi, una dopo l'altra, le due creature, a incantare il mio lungo passato, che stupito provò tremiti al cuore e nuovo palpitar di sangue nelle annose vene, pronte a scordare più decenni. Antonio Dattoli, Nel mare della notte. Nel mare della notte, i sogni di un'alba assopita sopra l'incontro di un momento hanno col plenilunio disciolto dell'estate il calore. Nella magia dei ricordi, come canne e palustri, fremono pensieri al vento del passato. La nostalgia del mattino ha seminato fiori per la sera. Lucia De Benedetto. Regalami dei fiori se passi per la piazza del mercato, dove all'alba si svegliano i banchetti, dove l'odore delle castagne e della crema fritta si mescolano. Se la stagione va morendo nelle pieghe della tua vita, regalami dei fiori e si colmerà il vuoto di ciò che non è stato. Defunt Anna Rosa. Vivere. Il mio cuore di marmo si sgretola di pianto e nelle vene di sangue scorre un melato veleno. Me ne sazio in abbondanza e ridonda in me un fiume di allegra paura, di un fino silenzio intriso di morte, di un diafano raggio di sole che pare di ghiaccio. Ed è come rifluire di idee, uno scorrere veloce, un pulsare febbrile di parole nella mente, una mano che ti libera il cuore ed è vivere. Silvano De Marchi, Lungo le rive del Passirio. Lungo le rive del Passirio, moltitudine di anziani sulle panchine, ripaiono gli orbi di Dante. Ma sotto, dove il verde flutto lambisce la riva, è tripudio di giovani snelli. Agilmente aggirano i massi, nuotano nei gorghi schiumosi. All'ombra di salici piangenti si stendono beati su brevi arenili. Lungo le rive del Passirio è la morte che avanza, è la vita che esplode. De Martin Paolo, Porte di ferro. E cancello da me tutta la notte del mondo. Urlo alla festa dei miti il mio orgoglio ferito. E le donne spogliate. Il rumore delle porte notturne gela il silenzio del cuore ed è sempre dolore. Il grigio mattino rimette la polvere al tempo e il velo ritorna a volare. Carlo De Romedi, Sat Est. Silenzio. Scorre irripetibile un'ora, viva, indelebile memoria degli anni. Nel maturare dei tempi, frugando anche per attimi nell'innato mio odioso pessimismo, ancorché forse illuso da chi ancora fresche albe assapora, o d'attratto da vane chimere e lusinghe, io esplodo un grato gioioso sat est alla vita, ai miei giorni. Ma dove ancora mi portino questi miei passi, davvero non so, non lo chiedo. gretta filosofia del mio vivere, velleità di impossibili approdi. Ogni giorno è mistero. Lasciate che io allora, cosciente ma libero, guardi ancora, rapito un'alba al suo sorgere, libero il piede sulle strade infinite del mondo, finché ancora, dall'alto, mi guiderà il sole di Dio. Gabriella di Oto. Girotondo di idee. Confondere. Calpestare l'idea. Coinvolgere l'ombra. Convincere l'essenza. Capire la vita. Concernere frammenti. Carpire messaggi. Conoscere identità. Capovolgere significati, così che l'idea crei luce, capostipite di verità.